Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Scusi, signor Mazzetti, lei è per l'abolizione? Lei è del fumo, magari. No, dicevo, lei è per l'abolizione del divorzio. Scusi, sa, ma ci sono tante cose brutte da abolire, vogliamo abolire proprio l'unica buona, il divorzio. Lei è da 20 anni un marito e un padre felice. E soprattutto responsabile. Allora perché è favorevole al divorzio? Perché io sono per l'indissolubilità del matrimonio riuscito e non del matrimonio fallito. Perché è meglio il divorzio delle corna quotidiane, delle botte con intervento dei vicini, delle pistolettate, delle coltellate, dell'arsenico nei cannolicci. L'avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un Nino Manfredi dannata nel 1974. Questo era uno spot per la campagna sul referendum per l'abrogazione o meno del divorzio. Il divorzio era già stato inserito nel 1970 nella giurisprudenza italiana e poi nel 74 c'era stato questo referendum per decidere di abrogarlo o meno. E Manfredi, come sentite, dà tutte le sue motivazioni in questo spot per affinché non sia abrogato il divorzio. Infatti ha 40 anni questa legge e oggi c'è questa grossa novità, è passato il divorzio breve, ne parleremo diffusamente qui a Effetto Notte. Mi piacerebbe però chiedervi anche che cosa ne pensate. Adesso si potrà divorziare tra i 6 mesi e un anno dalla separazione, finora dovevano passare almeno 3 anni dalla separazione per poter divorziare, ora a seconda che sia consensuale o davanti al giudice 6 mesi o un anno. Siete contente, contenti di questo risultato dopo tanti anni che si dibatte sul fatto di accorciare i tempi per il divorzio? Allora, come sempre, c'è o la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, le vostre riflessioni, oppure potete mandare i vostri messaggi sul divorzio breve che è passato oggi definitivamente con gli sms al 349-238-6666, quindi per i messaggi 349-238-6666, altrimenti la pagina Facebook di Effetto Notte, che sapete è sempre lì per voi. Poi torneremo naturalmente a parlare anche di immigrazione, lo sport, insomma tante cose come al solito, però prima vi racconto in breve la giornata. Divorzio breve, appunto, con un voto trasversale alla Camera il provvedimento da oggi è legge, d'ora in poi si potrà divorziare anche in soli 6 mesi. Immigrazione nella bozza per il vertice di domani, i leader europei intendono rinforzare rapidamente le operazioni Triton e Poseidon raddoppiando le risorse per il 2015 e 2016. Italicum via libera alla commissione, della commissione lunedì il testo arriva in aula, Berlusconi attacca Renzi, non può avere tutto e ai suoi, l'ex premier Berlusconi in una riunione rivela di essere uno dei principali obiettivi del ISIS. Terrorismo, preso un foreign fighter a Ravenna, il primo con nuove norme. A Parigi intanto è stato sventato un attacco terroristico, 2 chiese erano nel mirino. E per il calcio in Champions League a Monte Carlo, la Juventus in campo cerca la semifinale. Partiamo quindi appunto dalla novità di oggi che rappresenta una vera svolta giuridico-sociale per il nostro paese, il divorzio breve che è diventato legge, vi dicevo, sì definitivo dall'Aula della Camera, il provvedimento è stato licenziato, come si dice, a Montecitorio con 398 sì, 28 no e 6 astenuti. Il gruppo della Lega ha lasciato libertà di coscienza, quindi non saranno più necessari 3 anni, come vi dicevo, per il divorzio dopo la separazione, ma resteranno 6 mesi oppure un anno. Renzi ha twittato: il divorzio è legge, un altro impegno mantenuto, avanti è la volta buona. Poi ne parleremo e voi continuate a esprimere le vostre opinioni su questa novità. Occupiamoci naturalmente di immigrazione. Oggi il Presidente del Consiglio Renzi ha parlato alle Camere, il Parlamento ha approvato la risoluzione del Governo in vista del Consiglio Europeo straordinario che ci sarà domani. E in un editoriale sul New York Times Renzi scrive: non tutti i passeggeri sui barconi dei trafficanti sono famiglie innocenti. Che l'Europa faccia l'Europa in senso politico, che non sia solo un club di tecnici attenti al budget. Questo ha detto prima alla Camera, poi al Senato, il Premier Matteo Renzi riguardo alle stragi di migranti nel Mediterraneo, alla vigilia del Consiglio Europeo straordinario chiesto proprio dall'Italia e che si terrà domani a Bruxelles. Renzi non ha precisato che tipo di misure chiederà all'Europa, se non che la proposta dell'Italia riguarderà anche le procedure di asilo. Il Premier chiederà che siano gestite da un team europeo, ma sentiamo un passo del suo discorso alla Camera. Questo tipo di priorità è quella che noi chiediamo a un'Unione Europea che voglia essere qualcosa di diverso da un'assemblea di paesi membri di un club economico. Io sono molto ottimista sul fatto che l'Unione Europea possa finalmente cambiare passo. Torniamo umani, ha detto il Premier, che ha fatto poi un appello all'unità di tutte le forze politiche. Non dobbiamo dividerci, ma poi stigmatizzato quello che ha chiamato lo sciacallaggio delle opposizioni. Nel dibattito parlamentare seguito all'informativa molto duro il Movimento 5 Stelle con Alessandro Di Battista. Si occupi di quei 9 milioni di italiani che soffrono e vedrà che diminuirà anche lo sciacallaggio e diminuirà il razzismo e la xenofobia in questo paese, Presidente Renzi. Il segretario della Lega Matteo Salvini replica invece su Twitter chiamando il Premier becchino incapace, recordman di morti e sbarchi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto si apprende che i leader dell'Unione Europea intendono rinforzare rapidamente le operazioni Triton e Poseidon, quantomeno raddoppiando le risorse per il 2015-2016 e rinforzando il numero dei mezzi in modo da aumentare la possibilità di ricerca e di soccorso nel mandato di Frontex dell'Agenzia Europea. E questo è scritto nella bozza di conclusioni in vista del vertice di domani. E poi la politica italiana con l'Italicum, c'è stato il via libera della Commissione. Lunedì il testo sarà in aula, ma intanto da Berlusconi arriva un pesante attacco a Renzi. La battaglia si sposta in aula con l'incubo del voto segreto. La Commissione Affari Costituzionali della Camera approva l'Italicum senza le opposizioni e con i soli deputati della maggioranza democratica. Il ministro delle riforme Maria Elena Boschi sembra convinta che i numeri in aula ci siano, anche se non parla ancora di mettere la fiducia. Siamo tranquilli, ovviamente affronteremo il dibattito in aula. Non è detto che altri partiti dell'opposizione non ci ripensino magari e non votino la legge elettorale in aula, del resto si tratta per esempio per Forza Italia di votare lo stesso testo che tutto il gruppo di Forza Italia ha votato al Senato. Forza Italia però è intenzionata a dire di no, Silvio Berlusconi convoca i suoi, definisce Matteo Renzi malato di bulimia di potere, così Renato Brunetta. Forza Italia è contro l'Italicum, che è una legge che fa male alla nostra democrazia e per questa ragione invito la ministra Boschi ad astenersi da altre richieste di questo tipo che sono costituzionalmente inaccettabili. Dalla prima stesura del patto del Nazareno il premio di maggioranza è salito dal 35 al 40% dalla coalizione alla lista, mentre si è abbassata la soglia di sbarramento dall'8 al 3%. Attualmente solo i capilista sono bloccati. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Intanto è arrivata questa dichiarazione da Berlusconi, sembra che l'abbia detto i deputati di Forza Italia, sono tra gli obiettivi, ha detto, dell'ISIS, in cima alla loro lista di bersagli, ha detto Berlusconi, in cima alla lista di bersagli dell'ISIS. Lo avrebbe raccontato, secondo diversi presenti, nel corso della riunione dei deputati di Forza Italia. L'ex premier ha motivato in questo modo la decisione di non prendere parte a comizi all'aperto. Non ha spiegato perché dovrebbe essere il bersaglio principale dell'ISIS in Italia. Vedo intanto su questo molti vostri messaggi. Enrico che dice sulla pagina Facebook di Effetto Notte, Berlusconi non è in cima manco tra i suoi parenti ormai. Alessio dice non perde mai il vizio di raccontare barzellette. Elena, penso che l'ISIS non sappia neanche chi sia. Insomma, comunque c'è stato il tour toscano oggi di Matteo Salvini, leader della Lega, in vista delle regionali a Scandicci, vicino Firenze, ha ricevuto simbolicamente le chiavi di una ruspa da parte dei militanti locali all'esterno di un insediamento di un campo rom. E davanti ai cartelli contro di lui il leader della Lega ribatte: non sono io il provocatore. A Livorno poi attacchi ancora più pesanti con lancio di uova e pomodori. Siamo all'economia. In Italia arrivano segnali di miglioramento dall'industria. Sul fronte delle banche restano comunque delle criticità, come ha spiegato il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco in un'audizione al Senato. A febbraio l'industria del Made in Italy tenta il rimbalzo, anche se lieve il fatturato sale dello 0,4% rispetto a gennaio. Su base annua il segno resta meno, ma è comunque un segnale arrivato nel giorno in cui il centro studi Confindustria dice che la ripresa dell'economia italiana è stata innescata. Quasi contemporaneamente Ignazio Visco parla di miglioramento delle condizioni di fondo dell'economia e dei mercati grazie soprattutto all'intervento della BCE. Un trend che si sta riflettendo sulle banche, anche se c'è un ma. I bilanci bancari, nello stesso tempo, il nostro paese, risentono ancora della debolezza complessiva dell'attività economica. E ciò pesa sulla qualità del credito e sulla profittabilità degli intermediari. Attenzione, spiega il governatore di Banca Italia, parlando di vigilanza europea. Quando sarà operativo il meccanismo di risoluzione unico per gestire le crisi delle banche, le nuove regole non consentiranno il salvataggio di un istituto senza un sacrificio significativo da parte dei creditori. Peccato che l'Italia sia in ritardo nel recepire le direttive e ciò incida sulla stessa credibilità del nostro paese, conclude il governatore. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora occupiamoci di terrorismo, perché è stato arrestato a Parigi un giovane algerino che progettava attentati alle chiese, mentre a Ravenna è stato fermato un uomo sospettato di essere un foreign fighter e resta, quindi, alto l'allarme terrorismo. Un fondamentalista arrestato a Parigi perché pianificava attentati contro le chiese, un aspirante jihadista fermato a Ravenna mentre si preparava a partire per la Siria. L'allarme terrorismo resta alto in tutta Europa. Sto arrivando, voglio fare il jihad per Allah. Nusir Luati, 27 anni, tunisino con precedenti per spaccio, lo proclamava esplicitamente. È normale che chiedo di andare nello stato dell'ISIS. Se Dio vuole, aveva scritto, conquistiamo Roma, si alzerà la bandiera di Allah sulla torre di Pisa. Conversazioni in chat, intercettazioni al telefono, contatti col campo profughi nelle mani del califfato e progetti di viaggio verso Damasco che hanno portato la procura di Bologna a fermarlo applicando per la prima volta la legge contro i foreign fighters, conferma il difensore Francesco Furnari. Il fermo è stato applicato per essersi arruolato per il compimento di atti aventi finalità di terrorismo. Non so se l'espulsione potrà essere applicata o no. Prima di questa legge, in 4 mesi, 30 sono stati gli aspiranti jihadisti espulsi dall'Italia. Aveva invece già imminenti progetti di attentati Sid Ahmed Glam, il fondamentalista di 23 anni, arrestato a Parigi. In casa aveva un arsenale da guerra e documenti sullo Stato islamico. Siamo sempre sotto minaccia terroristica, ammette il presidente Hollande, ma la minaccia ora riguarda tutta l'Europa. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora dallo spazio Samantha Cristoforetti, l'astronauta italiana, ha risposto oggi alle domande della ministra dell'istruzione Giannini di 300 studenti e ha detto: grinta e carattere sono più importanti dei buoni voti. Con la riforma della buona scuola ferma alla Camera sotto il peso di quasi 2000 emendamenti, forse servono consigli spaziali, come quelli che Samantha Cristoforetti ha dato al ministro dell'istruzione Stefania Giannini e a 300 studenti, parlando in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale. Forza di volontà, determinazione e grinta sono come muscoli, bisogna continuare a esercitarli accettando le sfide, ha detto l'astronauta italiana. Quello che fa la differenza nel veramente riuscire a fare anche cose difficili che ci si propone è il carattere, è la grinta, è la capacità veramente ogni giorno di stringere i denti e di dare il massimo. E quindi, ripeto, nel dubbio, senza neanche pensarci un attimo, scegliere la strada più difficile. Secondo Samantha, servirebbe maggiore attenzione su materie scientifiche, inglese e sulla mobilità degli studenti. Così ha spiegato rispondendo al ministro, che le chiedeva di dare un suggerimento ai ragazzi per diventare astronauta, scienziato, ricercatore. Ma sopra ogni cosa, ha detto, vale il carattere. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora invece parliamo di calcio. C'era ieri la Champions League, c'è anche stasera, c'è la Juventus in campo, vero Dario Ricci? Eh sì, proprio così Roberta, siamo al 30° di gioco a Monaco, risultato ancora sullo 0-0, risultato che, lo ricordiamo, qualificherebbe i bianconeri questa sera in divisa completamente blu alle semifinali in virtù dell'1-0 dell'andata a Torino, ma Monaco pericoloso in almeno 2 occasioni, al 15° con un bello slalom di Bernardo Silva che Barzagli ha deviato sì in calcio d'angolo ma rischiando quasi l'autogol, al 20° con un bel tiro da fuori di Kondogbia, stavolta pronto Buffon a bloccare il pallone. 0-0 anche nel derby di Madrid al Bernabeu tra Real e Atletico, risultato che in questo caso rimanderebbe il verdetto definitivo ai supplementari, perché 0-0 è finita anche una settimana fa sul campo dell'Atletico Madrid. Grazie da Luigi, ci sentiamo poi dopo. Intanto, prima di aggiornare chi sta viaggiando, voglio leggere qualcuno dei vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il 349-238-6666. A proposito del divorzio breve, che da oggi è legge, ci sono le vostre opinioni. Carmine dice: non sono affatto d'accordo, se avete voglia di divorziare non andate dinanzi a Dio a giurare amore e fedeltà, siete cristiani. Tina invece scrive: lo spot di Manfredi che ho fatto sentire poco fa, dove nel 74 diceva meglio il divorzio delle botte, dimostra l'inutilità, dice Tina, l'inutilità del divorzio, mai come oggi le donne vengono maltrattate, uccise, tanto vale abolire il matrimonio. Poi ce ne sono molti altri, ma ve li leggo dopo. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, dopo parleremo anche del divorzio breve. Stanno arrivando molti vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina di Effetto Notte, la pagina Facebook. Però prima parliamo di un altro argomento e ancora prima vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, anziché alle 21, le notizie più importanti. Renzi, a proposito del problema immigrazione, dice: la fiducia ho nell'Europa, guerra ai nuovi schiavisti. Intanto domani ci sarà il vertice europeo straordinario e si va verso un piano per la distruzione dei barconi in Libia. Italicum via libera in commissione, lunedì il testo sarà in aula. La ministra Bussi dice no al voto segreto, Berlusconi critica, è una bufala. E poi è più facile dirsi addio, il divorzio breve da oggi è legge, si cambia dopo 40 anni, il governo dice questo è un altro impegno mantenuto. Uova e pomodori contro Salvini nel suo tour in Toscana, Livorno. Lui dice siete degli sfigati. E poi è stato sventato a Parigi un attacco terroristico, due chiese erano nel mirino ed è stato preso un foreign fighters a Ravenna. E c'è la Champions League, c'è la Juventus, poi ci aggiorneremo. E ancora stasera naturalmente non possiamo che subito parlare dell'immigrazione, di questa tragedia che c'è stata. Dopo queste ecatombe di sabato notte nel canale di Sicilia, contra i 700 e 900 morti, purtroppo non si hanno ancora il numero esatto delle vittime, che sono comunque moltissime, centinaia, perché ancora non è chiaro, secondo i testimoni, se erano 700, 850, 900 su quel terribile barcone senza nessuna misura di sicurezza, che dopo questa collisione con un mercantile portoghese si è rovesciato in mare e si sa che i superstiti sono solo 28, insomma, quindi veramente si parla di centinaia e centinaia di morti. Ecco, sapete che dopo questo naturalmente è ripreso con un particolare fervore l'acceso, anche confuso dibattito sull'emergenza immigrazione, su come affrontarla, su come evitare i tantissimi morti, ma anche su come contenere questi flussi migratori senza fine, in particolare sulle nostre coste. Ne abbiamo parlato molto in questi giorni. Il commissario europeo all'immigrazione Avramopoulos ha presentato al Consiglio dei Ministri degli Interni e degli Esteri in questi giorni 10 punti da mettere in atto il prima possibile, un piano di 10 punti. Domani è il tanto atteso Consiglio europeo straordinario tra i capi di Stato e di Governo dell'Europa per decidere quali misure l'Unione Europea può adottare per questa emergenza. Abbiamo sentito ieri con un esperto che l'Unione Europea ha un po' le mani legate, non avendo l'unanimità su che cosa va deciso e sulle misure da prendere per questo fenomeno. Ma c'è un aspetto meno in vista, meno conosciuto dai più, di cui vi vorrei parlare adesso. Cioè, ci sono delle operazioni di salvataggio fatte da navi di privati, e la prima nave privata per la ricerca e il soccorso di migranti è quella di Regina Catrambone, imprenditrice calabrese che saluto. Buonasera Regina. Buonasera, grazie. Quindi lei ha una nave, lei intanto vive a Malta? Sì, noi viviamo con la mia famiglia da 7 anni a Malta, io sono italiana, calabrese, come hai detto prima, e mio marito è americano di New Orleans. E avete una nave? Sì, noi abbiamo visto che c'erano nel 2013, che c'erano persone che stavano morendo in mare, abbiamo accolto l'appello di Papa Francesco e poi anche del nostro ministro Alfano quando c'era la missione Mare Nostrum, che diceva accuratamente agli altri stati di unirsi all'Italia a salvare le persone in mare, perché era disumano lasciarli morire in questa disperazione. E quindi abbiamo comprato una nave, l'abbiamo attrezzata con due droni, due gommoni veloci, dottori e paramedici, e siamo salpati l'anno scorso a fine agosto. Siamo rimasti in mare per 60 giorni, siamo riusciti a salvare l'anno scorso 3.000 persone. Caspita, quindi voi avete speso una parte del vostro patrimonio, evidentemente non vi mancheranno i soldi, però li avete spesi in questo senso, che non è da tutti, anzi, per comprare una nave, quindi l'avete equipaggiata proprio per questi salvataggi. Avete quindi 3.000 persone avete salvato, diciamo. Sì, l'anno scorso siamo riusciti a salvare 3.000 persone, alcuni direttamente sono stati ospiti sopra la Phoenix, la nostra imbarcazione, e altri li abbiamo aiutato nel salvataggio, sono stati trasportati su mercantili o su altre navi. Comunque devo dire che in nave l'anno scorso in mare abbiamo avuto una bellissima cooperazione con le persone che assistono giornalmente, la Guardia Costiera, le missioni della Marina Militare Italiana l'anno scorso sono stati veramente encomiabili. Voi avete un equipaggio anche naturalmente su questa nave preparato? Sì, l'anno scorso la nave è stata, tutta la missione di Phoenix del MOAS è stata finanziata da noi. Quest'anno 2015 ci stiamo preparando alla partenza, al secondo di maggio fino a fine ottobre, quindi abbiamo raddoppiato il nostro tempo in mare, le nostre forze in mare, sono più tre mesi ma bensì sei mesi, e quindi però abbiamo anche un partner, si sono uniti a noi i Dottori Senza Frontiere, MSF, Medici Senza Frontiere. Sì, che saranno, avremo cinque persone che saranno dei loro, due dottori, un infermiere, e poi ci sarà un coordinatore di emergenza e un comunicatore, un avvocato, un officer. Quindi si dice che anche Medici Senza Frontiere in parte parteciperanno come equipaggio, c'è un riconoscimento anche ufficiale della vostra azione filantropa, diciamo così, ma da parte del governo italiano c'è un riconoscimento, siete conosciuti, vi hanno contattati? Diciamo che l'anno scorso siamo stati noi a contattare loro lo sanno, il centro coordinamento, noi abbiamo cooperato col centro coordinamento a livello che in acque internazionali, se c'è un'imbarcazione che è in pan, che sta rischiando di affondare, il centro coordinamento, che tra l'altro è anche la sede del comando operativo della missione Frontex, si coordina, e noi siamo una nave in più a loro disposizione, però questa nave è completamente finanziata l'anno scorso da noi, e quest'anno invece viene finanziata tramite raccolta fondi. Quindi però siamo una nave con delle persone che non si sono improvvisate, e noi abbiamo lavorato per diversi anni nella ricerca e soccorso in terra, abbiamo persone stipendiate a bordo che sanno quello che stanno facendo, abbiamo ricevuto l'anno scorso anche alla fine della missione una lettera di apprezzamento dalla Guardia Costiera. Quindi Regina Catarambone, voi non fate questo mestiere, lei e suo marito, perché voi siete degli imprenditori del campo assicurativo, mi pare? Sì, anche nel campo assicurativo. Anche nel campo assicurativo. Lo fate proprio per amore del prossimo, questo? Io credo che quando tu vedi questi bambini, queste donne, questi giovani che cercano di scappare da questa situazione tremenda in cui loro vivono, anche perché poi loro te lo raccontano, non puoi rimanere indifferente. Noi non solo abbiamo abbattuto il muro dell'indifferenza, ma abbiamo voluto fare qualcosa. Potevamo farlo e l'abbiamo fatto. E noi adesso siamo di fronte a una crisi umanitaria di dimensioni epocali e non si può stare a guardare. Io nel mio piccolo, noi siamo profondamente preoccupati per questa retorica di antimigrazione che sta veramente in Europa avendo dei toni inaccettabili, tutta questa campagna dell'odio, della discriminazione contro le persone che cercano solo un futuro migliore. È veramente inquietante. Io lo so che non è la soluzione solamente salvarli in mare, questo lo sappiamo tutti, però quello è un contenimento, perché se loro sono in mare e stanno morendo, vanno salvati. Quindi continuerete a farlo, Regina Catarambone? Certo, finché ci saranno persone che saranno a rischio, metteranno a rischio la propria vita pur di cercare un posto pacifico dove i propri figli possano crescere, avere un'istruzione. Queste persone, se stessero bene nei loro paesi, non andrebbero via, nessuno andrebbe via. Io stessa non vivo più neanche in Italia. Comunque, insomma, la soluzione non spetta a voi, ma sicuramente fate un'opera di grandissimo merito. Io la ringrazio e faccio i miei complimenti, Regina Catarambone, e buona continuazione. Grazie a lei. Grazie. Buonasera. Insomma, avete sentito questa bella storia, però al di là degli interventi dei privati, ovviamente il compito istituzionale di intervenire in mare, di coordinare le operazioni di soccorso, ce l'ha la nostra Guardia Costiera. Per questo saluto Filippo Marini, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Capitano di vascello, portavoce della Guardia Costiera, il vostro, che è un compito ormai quotidiano, difficile, costante, specie in questo periodo col bel tempo, è veramente un compito difficile, Capitano Marini. Sì, la situazione, diciamo, non è facile, sono tanti i migranti che affrontano questi viaggi e sono tanti i soccorsi, le operazioni di soccorso che il Centro Nazionale di Coordinamento della Guardia Costiera, che è a Roma, deve tutti i giorni seguire. Sono tante le operazioni che coordiniamo, operazioni alle quali, oltre alla Guardia Costiera, che è appunto responsabile, ha la responsabilità della salvaguardia della vita umana in mare, ci sono altri soggetti che operano con noi, che sono la Marina Militare Italiana, la Guardia di Finanza, lo stesso Triton, appunto, con le unità navali che sono inquadrate nel dispositivo di Triton. Capitano Marini, vuole dare un po' di numeri che sono quelli che danno veramente la dimensione del fenomeno e del vostro lavoro anche? Senta, in questi ultimi tempi, parlo di 2 settimane, insomma una 20ina di giorni, siamo arrivati quasi a 12.500 migranti che sono stati salvati, un numero assolutamente molto elevato. Ricordiamo che nel 2014, lo diciamo spesso, sono 170.000 migranti che sono stati tratti in salvo grazie all'operazione Mare Nostrum, grazie ai mercantili. Solo i mercantili hanno tratto in salvo 42.000 migranti, sono stati coordinati da Roma, dirottati nelle zone in cui era richiesto appunto un intervento. E poi la stessa Guardia Costiera per 38-39.000 migranti. E siamo tutti lì, siamo pronti a dare appunto aiuto a chi chiede. In questo caso a chiederlo sono persone veramente disperate. Lei ha un'esperienza in particolare, un momento emotivo che ricorda in modo specifico, Capitano Marini? Guardi, forse le sensazioni più forti sono state durante l'episodio e il naufragio del famoso 3 ottobre, vedere appunto gli equipaggi delle motovedette della Guardia Costiera andare a recuperare cadaveri, tornare indietro e negli occhi il dolore di non aver potuto fare di più questa lotta contro, ripeto, contro il tempo che è una variabile tremenda, cioè il tempo arrivare subito è fondamentale. Pensi che queste persone per segnalare la propria presenza incendiano vestiti o altro, quando invece oggi esistono nel mercato dotazioni che sono appunto dei razzi che costano poco per segnalare appunto la propria presenza. È incredibile, non hanno giubbotti di salvataggio, non hanno assolutamente nulla. Ed è chiaro, non sono equipaggiati perché sono caricati su questi barconi dai scafisti, che sono gli attuali schiavisti, quindi certamente a loro non importa di salvaguardarli, probabilmente non sanno neanche quello a cui vanno incontro realmente. Ma no, ma sono persone che per lo più non hanno mai visto il mare, persone che non sanno nuotare, persone che vengono costrette appunto ad imbarcare. E poi abbiamo fondamentalmente due tipi di migranti, quelli che provengono appunto dalla zona del Maghreb, tutta la zona del Nord Africa, quindi Libia, Egitto, e sono per lo più subsahariani, persone veramente disperate che non hanno denaro, quei pochi risparmi li danno a questi scafisti per potersi imbarcare. Poi dall'altra parte, dai porti della Turchia, abbiamo osservato all'arrivo di siriani su unità un attimino più sicure, navi dai 40 agli 80 metri rispetto ai gommoni di 10 metri semisgonfi già alla partenza. Questa è la situazione che stiamo osservando. Capitano Filippo Marini, io la ringrazio, ci auguriamo che domani a questo vertice straordinario europeo arrivino delle risposte, delle misure che siano più efficaci. Leggevo prima del raddoppio anche delle risorse, insomma aspettiamo quindi domani, sperando di avere delle buone risposte. Intanto grazie Capitano Filippo Marini e buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. Grazie. Allora adesso brevemente, prima di lasciarci, volevo leggere qualche altro vostro messaggio, per esempio sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sul divorzio breve. Marco dice, vediamo se lo ribecco Marco, eccolo qua, dice: era ora, io sono per semplificare il percorso del divorzio e rendere più tortuoso quello che porta al matrimonio. Beh, Alberto dice: io credo che dovrebbero incentivare i matrimoni anziché i divorzi, quindi la pensano diversamente. Si dovrebbero favorire con incentivi di natura legislativa o economica le persone che si uniscono anziché dividono. Stiamo andando indietro anziché avanti. Come la pensate voi su questa novità giuridica da oggi, il divorzio breve e legge? 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure tranquillamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Una buona serata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo, agli ascoltatori di Radio 24. Ancora tempo nel complesso bello domani in gran parte Italia, ma con un po' di nuvole in più rispetto alle ultime giornate. In particolare domattina ritroveremo anche la possibilità di qualche piovasco sulla Sardegna, piogge che poi nel corso del pomeriggio di domani raggiungeranno anche Toscana, Umbria e Lazio, comunque precipitazioni sporadiche occasionali. Sempre nel pomeriggio di domani qualche temporale si formerà su Alpi e Alpi centro-orientali, comunque fenomeni isolati e di breve durata. Per quanto riguarda le temperature, clima ancora gradevole, nonostante una leggera diminuzione, arriveremo in ogni caso a toccare anche domani 24-25 gradi. Con questo è tutto, aggiornamenti in tempo reale sul sito trebimeteo.com. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Scusi, signor Maffei, lei è per l'abolizione? Lei è del fumo, magari. No, dicevo, lei è per l'abolizione del divorzio. Scusi, sa, ma ci sono tante cose brutte da abolire, vogliamo abolire proprio l'unica buona, il divorzio. Lei è da 20 anni un marito e un padre felice. Soprattutto responsabile. Allora perché è favorevole al divorzio? Perché io sono per l'indissolubilità del matrimonio riuscito e non del matrimonio fallito. Perché è meglio il divorzio delle corna quotidiane, delle botte con l'intervento dei vicini, delle pistolettate, delle coltellate, dell'arsenico nei cannolini. E questo è ancora lo spiritosissimo Nino Manfredi, ma anche insomma, diciamo, con una sua profondità, in uno spot, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sempre Roberto Giordano con voi, in uno spot del 74 nella campagna per il referendum abrogativo relativo alla legge sul divorzio, che era già stata introdotta in Italia nel 1970. Questo era il 1974 ed è stato il primo referendum in Italia per decidere se mantenere o meno quella legge. Questa, naturalmente, questa di Manfredi era la campagna a favore del mantenimento di quella legge. Così è stato, una legge che ormai ha 41 anni e oggi la notizia è che il divorzio breve è legge. Ne parleremo tra pochissimo con un ospite. Intanto vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, anziché accenderla alle 21 per sapere le notizie e gli aggiornamenti subito in diretta, ve le ricordo adesso le notizie principali. Divorzio breve, con un voto trasversale alla Camera il provvedimento da oggi è legge, d'ora in poi si potrà divorziare anche in soli 6 mesi. Immigrazione nella bozza per il vertice di domani, i leader europei intendono rinforzare rapidamente le operazioni Triton e Poseidon raddoppiando le risorse per il 2015 e 2016. Italicum, via libera della Commissione, lunedì il testo arriva in aula, Berlusconi attacca Renzi, non può avere tutto, e ai suoi, in una riunione di Forza Italia, rivela di essere Berlusconi uno dei principali obiettivi dell'ISIS. Terrorismo, preso un foreign fighter a Ravenna, il primo preso con nuove norme, e a Parigi è stato sventato un attacco terroristico, 2 chiese nel mirino. Calcio, Champions League, a Monte Carlo la Juventus in campo cerca la semifinale, vediamo che punto è, ma mi sembra di aver visto uno 0-0 con il Monaco, se non sbaglio, sì. E anche il derby spagnolo, Real Madrid Atletico 0-0. Dicevo, dunque, il divorzio breve è legge da oggi. La Camera ha approvato in via definitiva con 398 sì, 28 no e 6 astenuti la riforma delle norme sul divorzio italiano a 41 anni appunto dal referendum nel 1974. A favore hanno votato PD, SEL, Movimento 5 Stelle, Scelta Civica, PSI e Alternativa Libera, Forza Italia e Area Popolare. Hanno invece Forza Italia e Area Popolare dichiarato il loro sì, lasciando però anche la libertà di coscienza, viste le diverse sensibilità presenti nei gruppi. la Lega Nord ha lasciato libertà di coscienza, anche se per lo più hanno votato contro. Diciamo che i sostenitori, Renzi in primis, che ha detto un altro delle promesse del governo che sono state mantenute, dicono i sostenitori: questo finalmente è un grande passo di civiltà. L'Italia si parifica un po' a tanti altri paesi europei più moderni di noi, e altri dicono, per esempio come alcuni cattolici o la stessa famiglia cristiana, che questo significa lo sfasciare la famiglia. Ne parliamo con Gianettore Gassani. Buonasera, avvocato. Buonasera a voi. Presidente nazionale e fondatore dell'AMI, che è l'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Quindi una grande novità giuridico-sociale in ogni caso, avvocato. Assolutamente una grande rivoluzione culturale, soprattutto, e giuridico-giudiziaria, perché l'Italia finalmente entra attraverso il suo diritto di famiglia in Europa. Io credo che il diritto di famiglia sia un po' il termometro di un paese. Siamo ancora molto indietro rispetto agli altri paesi, c'è ancora molto da fare sulle coppie di fatto, sulla procreazione medicalmente assistita, sul tribunale per la famiglia, però credo che questa riforma, questa nuova legge sia stato un atto coraggioso del legislatore. Tra l'altro il fatto che sia il frutto di un voto trasversale significa che c'è un comune sentire importante, che poi la fotografia del paese. Gli italiani non sono più un popolo di conservatori, è un popolo molto moderno, molto più moderno di quanto si possa pensare. Stavo guardando anche i messaggi tra la pagina Facebook di Effettonotte e gli sms al 349-238-6666. Dice per esempio Patrizia da Torino: sono separata legalmente da 40 anni, ora prima di invecchiare volevo tornare signorina, ma con tanto di consensuale senza alcun diverbio, sono stata in udienza l'11 novembre 2014 e non ho ancora risolto chissà quando, altro che divorzio breve. A parte mi sembra una follia che sia da 40 anni, e poi comunque mi sembra che la legge che è stata varata oggi valga anche per i procedimenti in corso. Assolutamente sì. Senta, quali sono quindi le principali novità? Allora, intanto che si accorcia, dalla separazione non sono più necessari 3 anni di attesa per divorziare, ma si può andare dai 6 mesi all'anno a un anno intero, a seconda che sia consensuale o meno, no? Esatto, 6 mesi per le separazioni consensuali, cioè quando c'è un accordo, e un anno, 12 mesi, quando invece c'è un contenzioso, c'è una separazione giudiziale, che spesso anche sono separazioni particolarmente violente. Tuttavia devo pensare che questa riforma sia utile soprattutto per le separazioni consensuali, perché veramente lì si fa presto. Quando invece c'è un contenzioso, una separazione giudiziale, francamente penso che questa sia una legge che possa fare poco, perché parliamoci chiaro, nei tribunali italiani le separazioni giudiziali abbisognano di molto tempo per le istruttorie, ci sono dei momenti processuali, ci vogliono almeno 24-36 mesi. Quindi credo che fondamentalmente sarebbe anche un po' un incentivo a consensualizzare. Ovviamente non si può sempre consensualizzare, ci sono delle procedure che inevitabilmente finiscono in una giudiziale, perché non c'è accordo su niente, oppure c'è stata violenza, ci sono delle richieste di addebito, non si va d'accordo con i figli per l'affidamento dei figli, per l'assegnazione della casa coniugale, ci sono molte problematiche sicuramente. Senta, leggevo anche che la comunione dei beni si scioglie quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati. Che differenza c'è per esempio con la legge che è stata in vigore fino adesso? Questa è un altro grande passo avanti, perché prima bisognava attendere la definizione del procedimento, quindi un decreto di omologa nelle separazioni consensuali, cioè quindi diciamo il sigillo del tribunale di queste separazioni consensuali, che è altro che non sono che un contratto, o la sentenza per quanto riguarda la separazione giudiziaria. Adesso alla prima udienza, quando la coppia vede per la prima volta il giudice, da quel momento si scioglie la comunione. Però dobbiamo anche sottolineare una cosa che io ritengo molto importante. Il 70% delle coppie sposate ha optato per la separazione dei beni, e questo è significativo del fatto che gli italiani probabilmente hanno una riserva mentale quando si sposano, perché siccome ci tengono molto ognuno a mantenere le proprie sostanze che si vanno a formare durante il matrimonio, in effetti soltanto il 30% delle coppie aveva optato per la comunione dei beni, quindi questo è un problema relativo. Certo è che cambia molto anche in termini di prospettiva futura. Molti addetti ai lavori, tra cui anche il sottoscritto, sogna l'abrogazione tout court della separazione, che io ritengo assolutamente inutile. Nel 98% dei casi la gente che entra in tribunale e deposita un ricorso per separazione non torna indietro. L'Europa ci insegna che in molti paesi moderni quanto il nostro, più del nostro, la separazione non esiste più o è facoltativa, salvo rare eccezioni. Ciò significa che bisogna evitare il doppio processo, prima il processo di separazione e poi il processo di divorzio. Attenzione, il divorzio non è automatico, lo devi chiedere. Se per le separazioni consensuali questo può essere eventualmente, significa una spesa relativa in più, per le separazioni giudiziali, che poi diventano divorzi giudiziali, questa cosa diventa particolarmente pesante per le coppie. Quindi credo che dovremo avere il coraggio, non adesso che mi rendo conto che sto dicendo qualcosa di troppo moderno per l'Italia, ma dovremo essere un po' come i nostri cugini spagnoli, come i greci, come i romeni. Basti pensare che tantissimi italiani vanno a divorziare in Romania. Ma poi vale in Italia? E poi vale in Italia? Assolutamente sì, perché le leggi sovranazionali, quelle europee, i regolamenti, il regolamento CE 44 del 2001 consente ai cittadini dell'Unione Europea di poter ottenere il divorzio anche in un altro paese. Basta ottenere la residenza in una capitale europea, affittare un monolocale. E il gioco è fatto, dopo sei mesi si può incardinare una procedura di divorzio immediato in una capitale europea. Ci sono state circa 9.000 coppie in questa transumanza di italiani che sono andati all'estero a chiedere appunto di far finire il proprio matrimonio. Quindi, poiché c'è questo dato di fatto, io credo che prima o poi dovremmo allinearci agli altri paesi, o quantomeno rendere facoltativa la separazione. Voglio capire anche che alcune persone ritengano che sia importante riflettere, ma deve essere una scelta. Ecco, questa è l'obiezione. L'obiezione dei critici e di parte dei cattolici è: ma non è troppo poco tempo per riflettere e poter tornare sui propri passi? Questa è l'obiezione. Ho capito, ma quando la separazione durava 5 anni, qualcuno quanta gente ci ha ripensato quando durava 5 anni, fino all'87? Poi dall'87 ad oggi la separazione è durata 3 anni, a volte anche 4, 5, 6 a secondo delle separazioni giudiziarie. Quanta gente ci ha ripensato? Pochissima. Quindi la favola della separazione come il momento del ripensamento è un'ipocrisia tutta italiana. La famiglia non si salva allungando i tempi e il calvario di un processo che spesso si inasprisce gli animi e determina anche poi l'odio profondo nella coppia. Le famiglie si salvano in altro modo, magari potenziando i servizi sociali, i percorsi di mediazione familiare e soprattutto cercando di formare le nuove famiglie. Probabilmente molti non si rendono conto che la gente non si sposa più come una volta. Quando nel 74 fu varata, finalmente il divorzio si salvò da un assurdo referendum, si celebrarono 430.000 matrimoni. Nel 2013 i matrimoni sono stati inferiori a 200.000. Cioè, più che creare ostacoli alla gente che vuol farla finita, cerchiamo di incentivare la gente a sposarsi invece, perché la tragedia è che la gente non si sposa più. È inutile andare a creare ostacoli a chi non ce la fa più e ha il diritto di rifarsi una vita, di prendersi una rivincita. E soprattutto consideriamo che l'Italia non è più quella di una volta. L'Italia, soprattutto nel centro-nord, è composta da moltissime coppie di fatto che mettono al mondo figli, accendono mutui, creano dei sodalizi familiari sovrapponibili a quelle coppie degli sposati. Dobbiamo prendere atto di una realtà enorme del nostro paese. Che è cambiato. Che è cambiato. Assolutamente, assolutamente. Avvocato Gassani, io la ringrazio. Grazie a lei. Grazie. E a tutti. Buona continuazione. Grazie. E buona serata. E direi che è il tempo di andare in viabilità, sì. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ecco qui di nuovo le notizie più importanti. Tra l'altro è arrivato a questa agenzia notizia che arriva da Napoli, un omicidio a Napoli, un pregiudicato ucciso con 3 colpi alla testa. Questa è una delle ultime 6 notizie. Le altre sono Renzi che dice ho fiducia nell'Europa per quanto riguarda l'emergenza immigrazione, guerra ai nuovi schiavisti, domani il vertice europeo, si va verso un piano per la distruzione dei barconi in Libia. La politica con l'Italicum, via libera in commissione, lunedì il testo sarà in aula, la ministra Boschi dice no al voto segreto e Berlusconi critica, dice è una bufala. E poi è più facile dirsi addio, ne abbiamo appena parlato, del divorzio breve che da oggi è legge e cambia dopo 40 anni. Uova e pomodori contro Salvini a Livorno. Lui dice siete degli sfigati, sta facendo il suo tour per le regionali, sono a fine maggio. E poi è stato sventato un attacco a Parigi terroristico, due chiese erano nel mirino. Intanto a Ravenna è stato preso invece un foreign fighters. Vediamo la Juventus al momento in Champions League contro il Monaco, sempre 0-0. Europa 24 notte. La presidenza Juncker della Commissione europea ha rilanciato le strategie sul manifatturiero, confermando l'obiettivo del 20% del prodotto interno lordo dell'Unione europea da attività produttive. Insomma, deve essere ricavato questo 20%. Maurizio Gattiglio, presidente dell'Associazione europea delle fabbriche del futuro, chiamata anche Industria 4.0, ha spiegato, intervistato da Gigi Donelli, il progetto europeo in occasione del nono forum economico italo-tedesco. Recentemente la Commissione Juncker ha ripubblicato le strategie sul manifatturiero, confermando l'obiettivo del 20% di GDP che arrivi da attività manifatturiere. Eravamo intorno al 20% prima della crisi del 2008 e oggi siamo intorno al 15%. Quindi l'associazione promuove con un contratto formale con la Commissione europea la ricerca per mantenere il settore manifatturiero competitivo a livello mondiale. Quello di cui parliamo oggi però sono queste industrie 4.0. Industria 4.0 implica industrie della quarta rivoluzione industriale, quindi le industrie che utilizzeranno le tecniche del futuro. Fa parte di una strategia che è stata sviluppata particolarmente all'interno delle aziende tedesche e con un altissimo supporto anche politico in Germania, con l'acronimo appunto Industrie 4.0. Noi come associazione parliamo di fabbriche del futuro, in quanto vogliamo comprendere anche le esigenze di imprese europee che sono leggermente diverse come composizione, come tipologia dalle aziende tedesche. Quindi stiamo parlando essenzialmente di fabbriche che utilizzeranno delle nuove tecnologie, fabbriche che utilizzano ad esempio il 3D printing, realtà aumentata, robotica collaborativa, quindi robot che lavorano insieme agli uomini, e logistica avanzata, ad esempio sui droni. In linea di massima sono aziende che lavoreranno in un contesto economico dove i dati viaggeranno più delle merci. Dottor Gattiglio, per primeggiare in questo nuovo mercato è necessario creare delle infrastrutture, e per questo mercato le infrastrutture sono essenzialmente quelle digitali, insomma la banda larghissima per intenderci. La Commissione europea, l'Europa sta facendo abbastanza in questa direzione? Ma io credo che la Commissione abbia ben chiara questa sfida, però stia affrontando delle problematiche essenzialmente economiche e di supporto politico a questa sfida. Infatti col piano Juncker in questo momento sono stati tagliati 2,7 miliardi di euro alla ricerca di Horizon, che ha ovviamente molta rilevanza anche per tutte le tecnologie avanzate e digitali. Sono stati tagliati 3,3 miliardi per l'agenda digitale, e questo a favore di un piano a disposizione degli Stati membri, dove gli Stati membri hanno indicato come priorità molto più infrastrutture vecchio stile, se vogliamo, per trasportare merci su gomma o su rotaia, accettando eventualmente di penalizzare questa sfida digitale. Ecco, questa è una delle tematiche che stiamo portando avanti a Bruxelles e ovviamente riscontriamo supporto all'idea, purtroppo con qualche difficoltà, diciamo, più economica. Europa 24 notte. Collaborazione con Euronet Plus. E intanto stavo leggendo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche al 349-238-6666. C'è Aurelio sulla pagina di Effetto Notte che dice vivo in San Francisco, perché pensate, voi ascoltano Effetto Notte veramente da tutto il mondo per essere costantemente aggiornati, quindi voi che siete comodamente in Italia, mi raccomando, non perdete nessuna puntata. Dice vi ascolto tutti i giorni, qui sono, l'aveva scritto alle 21:10, quindi c'è le 12:10, ho divorziato 8 anni fa, in 6 mesi ho divorziato, sono contento che qualcosa in Italia cambia, questo è un passo avanti. amante di civiltà, così dice Aurelio da San Francisco. E poi Antonella, a proposito del divorzio breve, sarò la prima, dice con entusiasmo, con un punto esclamativo. Cristiano, immagino amici e amiche a sollevare calici, ma intravedo anche forti tremori e bruschi ripensamenti ora che le pratiche sono più celeri. Ma ora corriamo subito dal nostro Dario Ricci per capire come va la Champions, se la Juve ha fatto qualche passo avanti. A proposito di passi avanti, ma il passo avanti più importante l'ha fatto il cronometro, direi, Roberta, perché siamo al 52esimo e ancora sullo 0-0 a Monaco. Seguiamo il calcio d'angolo dei transalpini, respinge la difesa bianconera, 0-0 che la Juventus sta difendendo con parecchia sofferenza, perché le garantirebbe la qualificazione. Una Juve che però nel primo tempo non è riuscita a mettere la partita sui binari desiderati, un paio di buone occasioni per i monegaschi, anche se al 44esimo Tevez dal limite dell'area ha avuto sul destro la palla buona per siglare il vantaggio, palla però fuori di pochissimo. 0-0 e anche qua siamo chiaramente al 53esimo, tra anche a Madrid nel derby tra Real e Atletico. In questo caso il risultato a reti inviolate varrebbe i supplementari, quindi il derby di Madrid potrebbe avere una coda emozionante, così come ai supplementari di fatto era finita la finalissima tra sempre tra le due squadre di Madrid dell'ultima edizione vinta dal Real. Staremo a vedere. Grazie Dario Ricci. Grazie. Ciao a caro voi. Dario. Leggo adesso un'agenzia dell'ultima ora, l'ultimo minuto, diciamo. La Turchia richiama l'ambasciatore in Austria dopo il riconoscimento del genocidio degli armeni da parte del Parlamento di Vienna. Quindi continua l'attacco della Turchia alle personalità o anche agli stati che riconoscono quel genocidio, che è stato ricordato dal Papa all'inizio del Novecento, dei turchi, da parte dei turchi nei confronti degli armeni. Al momento ci dobbiamo fermare qui, ci risentiamo tra pochi istanti.